Buonasera, e allora? Ali senti questi marocchini? Sì. Ah, ma ormai non sono i marocchini. Ma gli orientali. Oh, ma i clienti sono francesi. Oh, guarda Gerusalemme da sotto. Siamo andati di sotto. Ma non ti senti? Sì, non ti rispondere domani, non compreremo anche a lui. Arrivi lui, esatto. Sì, se arrivi in muro, arrivi niente in muro. Caro Grevia, certo. Perché stanno parlando fra di loro, capito? È l'apparecchio che stanno... Ma certo, diciamo, messo le tappa. Però mi avevo aspettato, era acceso l'apparecchio, ma adesso... Sono qua, va. Sì, no, io ho acceso adesso, neanche 5 minuti. No, sto qui in giro. No, per le lati, che ce ne fa una cosa, ma a domani, a folla. Vabbè, successo, salito sì. Ah? Successo, salito sì. No, ancora no. Tu, forse mi fai già Eva, tu mangiamo. Oh, Eva? No, non mi ha fatto però. No, non mi ha fatto, ma non c'è la mia che doveva esserci. Quindi, no, ho ragione, non faccio. Qualche forza più ho avuto, era stato il suo, era stato un coloso e dare un po' forza, penso che abbia fatto la parte. Sì, mi pare che abbia fatto un po' il portatore, che l'aria era nel Daniele. Ah, ecco. Certo. E si è passato la parte di Alghero, era fatta di Ugino, e quelle zone più da di Ugino magari. Sì, ne avrà fatto soltanto, perché l'aria non mi sentiva come era. Era nera, nera. Sì, ma che no, non c'è l'altra persona che sta lavorando la mattina, quindi io non faccio nulla. Se continuo così, non so, diciamo qualcuno a farlo. Piano si fanno su tutto. Sì, quando si negano, tanto già c'è il televisore. Se no a italiano già si vede. Se sono un po' che già si vede. Ma quella c'è tra l'antenna centralizzata. Scusa. E quella centralizzata. Solo che è puntata sul tetto. Ah, con il carta. Ma c'è la nuova mettete oppure quella che c'era? No, quella che ci sono, già ho visto che sono in buone condizioni, c'è solo il tubo tagliato, il tubo l'ho preso, sono in magazzino. Ah, ecco. Speriamo che non ci siamo rotti, facciamo un po' qualcosa, però se si vede il taglia uno vuol dire che la sede è buona ancora. Ho puntato appoggiata nel tetto, con la punta appoggiata nel tetto. Faccio il primo, secondo, terzo, rete 4, canale 5 e Italia 1. Tutto il resto non si vede. E aspettare che canali Italia 1 ce ne sono parecchi. Non si vede, si vede solo quelli lì, ma si vede. Ma state forte, un po' bello, va. Un paio di che fa caldo, può salire. Sì, va bene. A salire, si può salire, ma se si in due, tre, si può fare, no, se c'è la rasura non faccio nulla. No, passano in due, non tre persone, passano in due, una, ma c'è l'altra piazza, poi, ma c'è le stazze nuove oppure ci sono le stazze che ci sono? Una ce n'è di stazze, le ho appoggiate al pilastro. Sono attaccata al pilastro, attaccato, quindi ce la smontano i due burroni che ci sono. Anzi, uno è da allentare e l'altro è da togliere, perché è arrugginito. Quindi quello lo metto a nuovo. Se l'altro è buono, l'altro ci può usare, però uno è da tagliarlo. Ehi, allora, c'è un po' di poco, va. Una mezz'oretta da solo si fa bene. E per una mazzappa che si sta rigirita. Quello lo vecchio mette la luce. No, la staffa è buona, perché è intorno al pilastro, fatta a misura del pilastro. Quindi quello è solo da togliere un banale solo, ma larga a perle sempre entri dentro il tubo. Ah, e allora non è che sia una cosa complicata. È facile scattarla, va. È una mezz'oretta che si attacca tutto, va. Sì, in due si può fare tutto, si può fare, ma non si può lavorare da solo, non si può, perché devi fare attendi, prendi, prendi. Se in tre è meglio che uno rimane sotto, abita quella, abita la staffa, il bolone della staffa, ci ho messo in nuovo, abita il bolone della staffa. Ah, perché il tubo fa finire tutto il tetto. Sotto il tetto va a finire come dentro la staffa, va a finire. Una notte la mattina è la staffa. Una volta che è murato, forse muove più il suo tubo. Vabbè, allora tranquilla, non è complicata, capito? Vabbè, che condominio, capito? Poi due o tre, penso che ci sono complici, e faccio la piazza tra qui. Sì, è così. Ma te ne non c'è mai. Sono qua Giammarì. Ehi, anche la ora stavo attaccando a poco il piccaglio, ero venuto a entrare. Ma sì, vengivo, perché non ha detto la vengivo. Grazie che puoi entrare. Cos'è Giammarì? Laggana, so. Ha visto che non laggana. Ma peggio Baedo, se non laggana peggio Baedo. Lui non lo sa cosa si perde. Se vuoi entrare, entra, se no, se tu chiami un debut. Aspetta la porta, Io l'ho spalancata. La porta è sotto la pezza. Sì. Se vuole entrare, tu manda un permesso, entra. E se no, non entra adesso. Se vuole entrare, la porta è sempre aperta, quindi... Hai capito? E buzza chi è tagliato. Andiamo, andiamo. Io bello di tutti, lo si può là. Capito? E vabbè. Ecco che si fa. Qualcuno magari provando, va. Ha sentito... Qualcosa si è bloccato qui, forse si passava la sera di nessuno. Sì, infatti è così. Quando si vuole fare bene la breccia è da far 5. Sì, io lo so, dico, ma lui non ci crede. È peggio per lui se non ci crede. Noi siamo così. Oggi ho chiesto. Andiamo bene, grazie. È così, adesso, per carità. Ma domani ti ho già detto. Dopo, quando finisce il telegiornale di cosa di Rudy Blu? Il telegiornale sardo, di Rai 3. Hai visto che Mattarella era a Cagliari? Sì, io l'ho visto, sì. Era a Cagliari. C'era l'ambasciatore, era in Oggi, in Sassari, che maniera era. Ma è giunto pure a Sassari. Sì, in Sassari, ma era in serie però quando si Sassari. Ad Alghero. Era da un amico suo in agroturismo. Mi ha detto. Ha mandato il tramito gratis. Beh, se ci cambi l'ho fatto. Una persona di luce come lui, l'ho fatto che la fanno pagare. L'ho fatto io, no? Sì, tutte le commette faccio gli avevo. Gli hanno mangiato pure. Io sono di guaglia, che gli vado a mangiare. Beh, poi non è che paghi lui, no? Non pagherò mai lui. Perché sono gli altri che sono sempre a prezzo, quelli pagano tutto. Magari uno paga niente. Chi è il governo che paga? No. Se è il governo che paga, noi. E già l'hanno fatto mangiare bene, certo. L'ha ringraziato infatti allo scorso, quando il corso, certo. Dice che è stato abbastanza bene, per cui si dice a chi tornerò, così la dita al padrone del locale. Sono rugrillo, certo, perché se non si mangiava i cibi, sto Giulia. Per un momento mi sono già riuscito un po' poco, un paio di milioni, un paio di milioni mi viene da dire. Con 2.000 o 3.000 euro. Ma non credo però. Può anche darsi per cui io gli da chi sono, per cui magari lui non si interessa a queste cose, ma ci sono gli altri come si chiama lì, il caso lì dietro che fa pensano a tutto, capito? Ha preso il suo tesoriere, quello che paga, ce l'ha preso. Ma te lo assegno, te paga a me. E Buzzecchietta Cagliari. È già una persona cazzo, illustre, che è la sala lo anche mangiare bene pure, dai. Poi, questa gente di chi, già non sa cosa mangiano. Mangiano roba esclusiva, non come noi. Noi mangiamo di tutto, anche del sapazzato. E dove il sapazzato pezzo di magia, Se mancava già la domanda. Certo, non ha trovato la domanda. La domanda sì, c'è la domanda. Ma non penso la domanda, Del sapazzato, credo. Non credo, che di mangiare roba sostanziosa, so, perché i soldi ci sono. Non è che non abbiamo, noi siamo costretti a mangiare quello che ci vanno. Se cosa stiamo pagando, poi domando, mi arrivi adesso che domando. È normale, no? Certo. Ma c'è il certo che loro mangiano roba più di riva, penso io. No, infatti è così. Loro quello che gli presentano, mangiano, è roba squisita a buro. Non so, c'è il coso gambaroni buro. Roba di riva. Anche roba di riva. Non penso di avere roba di scatto, assolutamente. No, si farebbe bene, a noi si può trattare bene, ma loro no. L'anno scorso c'era anche la figlia con lui, quindi ci aveva fatto domanda a venire, voleva prenda. Lo credo, penso di... Già, già si doveva dire... Poi darsi pure, già ci sono i punti riservati, dai. Sì, ma perché nella spiaggia la chiudono per loro. Ecco cos'è. Faccio pure, ciao, ma la faccio mettere la forma. Tanto. La faccio vedere, poi ringraziare a tutti quanti quelli che erano lì. Vabbè. Ciao, sì. Ho visto che era a Cagliari, infatti, per cui con i bambini erano, bambini di scuola, forse è giunto proprio per la scuola, va? Sì, è venuto proprio per inaugurare la scuola, è venuto. Per i bambini sono entrati alla scuola, inaugurato. Non sanno offrirvi l'opposto. Quelli girano, dappertutto fanno, ma è normale, no? Sì, lo chiamano, se può venire viene, se non può venire lo dice subito, non posso venire, posso mandare anche assessori. Vabbè, no, non fanno come fanno la Papa, ragazzi. Anche se Papa davvero, da congo, vero? Certo, adesso se non può permettere andare, quindi, se prendo i miei viaggi, si offende. Guarda, mica sta girando questo qua, sta per tutto andando, ancora sotto sotto dagli altri assetti c'è la spiaggia. Se manca solo in America rimanca da andare. Ah, in America non sei mai andato? No, non sono mai andato, poi sono arrivati. E a pensare che quasi in mezzo all'americano lui, cazzo, è di cosa di... L'argentino mi sembra che sia, no? Sì, no. Si baci. Ecco, sì che è già il consigliere dell'America. No, in America proprio con il presidente non è mai andato. Il presidente è giunto in Italia, però anche lui non è mai andato. Ehi, sta anche lì, là, perché sta girando tutto in Italia, sta girando tutte le nazioni. Chi piace a girare, piace a girare direttamente, sta bene, l'unico Papa mi sembra che abbia girato tanto è lui, Padre Francesco, Papa Francesco. Sì, lui è l'unico che sta girando ancora. Se te lo permettere, che si può permettere, va, lui che non lo credo di più si rimane in occhi. E poi lo voglio tutti bene, hai visto che accoglienza che ha fatto. Infatti, purtroppo è così. Allora invece non si può rivedere. Ma quel punto non motivano a noi. Anche i pazienti sono. Ma così pensai. Infatti è così. Ma così pensano a noi, purtroppo. Ha risolto il bencio, però a noi non è che si pensa. In Russia che l'ho fatta. Non so che non si costreggiano. Io vedo brocca, è la gente mala. Ma visto che non aveva manco un presidente russo, non aveva manco tutti a ciappando a Rubabba, anche se io si va a recciare subito. Un attimo. Buonasera, sono della stazione, sono qui a Giulia. Ho fatto un'informazione, la farmacia c'è giù vicino a casa tua, sul posto alternativa, l'appuntamento per il video ancora sta facendo. Quello da cosa? Quello che c'è lì davanti. Esatto, ora c'è giù un cavallo. Vi è andata dentro la farmacia, giusto? Sì, dietro la farmacia. È aperto il lunedì, mercoledì e il venerdì mattina. Oh, dimmi giorni, venerdì mattina? Lunedì, mercoledì e il venerdì mattina. Aspetta, che me lo segno. Mi segno un appuntamento urgente per il lunedì, allora. Lunedì, mercoledì e venerdì, giusto? Giusto, solo di notte mi aperto. Sì. Grande farmacia, bella farmacia direttamente, bella farmacia. Benissimo, vediamo se Giovanni è entrato. Giovanni. Ciao Marie, buonasera. Come va, come va? Tutto bene, San Giovanni, tutto bene, abbiamo già sistemato, già va bene. Tu cantavi, stai zappando, sì. Oh, io già zappo. Oh, yeah. Tu sa dove non posso fare più niente, però qualche cosetta già l'ho fatto, ma senza fare niente lo so, è abituato a fare e sono sempre facendo, anche se ero un po' picco, magari. Tu mi ci difendi qua, anch'io qua, stiamo sempre facendo, ma finisce a destra, c'è a sinistra, c'è a rapparto, e vabbè, pian piano, a me si passa un po' la giornata. Avanti, Vittore! Io ho visto come hai messo l'antenna! Ce l'ho la luce anche bascolante! Ormai c'è la lanterna che c'aveva la volta che mi si era rotta. Comunque mi ha sistemato, avevo fatto quel sistema che ti stavo dicendo l'altro giorno. L'abbiamo tutto sistemato e funziona bene, va benissimo, ottimo. Quando devo fare una manutenzione, giro la mano bella, riscendo e faccio la manutenzione che mi piace. La parologia la tiene in alto e devo approfondire e aggiustare. Esatto, così ho detto di salire sul tetto. Ho detto di salire sul tetto, ho terminato di salire sul tetto. Sinceramente non vedo di dire che c'era anche paura. Anche un po' io ho paura di salire sul tetto. Adesso con questo sistema non ho... Davvero lentamente, giro l'albero, riscende, faccio tutto come vuole, però la risolvere e poi lì si blocca la sera. Ci sono i coscienti e sciocchiamo un po'. Dottore, andiamo così. Abbatti Giovanni. Allora hai fatto lavoro ben fatto, Marie. E che te la fai usato? La stella, solo la pane. Si è staccato un filo interno, poi mi si era rovinato la protezione della bobina e stava andando male, capito? Dunque, dico prima stavo utilizzando la canapesca che ce l'ho piazzata, la canapesca ce l'ho in terra, ce l'ho piazzata. Adesso abbiamo Luca che ha sistemato questa la stella, abbiamo collegato il filo che si era staccato, io ho tutto pulito, abbiamo fatto la protezione. La protezione era trasparente, invece ci ho messo un tubo arancione, poi non l'ho più curato, un tubo da 80 arancione, ho fatto il tubo e ho fatto la protezione. E adesso va benissimo. Ultima. Va benissimo, sta uscendo bene, per cui va bene la sera. Ma ho avuto anch'io in campagna la sera, molti anni fa però, dopo me l'ha rotta, c'è la cornacchia, me l'ha rotta. E l'ho buttata fuori, c'ho la faccia qua che avevo sotto dalla prova di Mario, e l'ho piazzata io, e ancora c'è, dove ci manca tutti i radiali, e la punta ci manca, però funziona sempre. Buonasera, ben entrato. Questa qui c'ha i radiali metronesia, che si stanno consumando, adesso con cavo mi compro il tubo di alluminio e io le faccio. Poi avanti ci vogliamo. Andiamo a andare, Marina, cacca! Ben entrato, ben sera, abbiamo fatto. Come scelti, Marina? Benissimo, sei come sotto a casa. Esagerato, ciao Marina, ciao Giovanni. Luca, 9:20, va benissimo. Avanti Vittore. Buonasera Luca. Hanno andato che fa intendi? Sì, era che posso vedere, uno bravo. Ma non puoi dire un po' mamma, come ti interrompo. Sì, ma non è fatto, ti schiatta. Guarda che ho fatto tu. E vabbè, è stato bene. Ciao, buonasera. Cazzo, tu? Sei che già manno me? Come mai ci sei raccontato che l'hai fatto manno? Ma dai, andiamo bene. E per forza va bene. Vabbè, Marie, è bella canna fresca quando la piazzi. No, la canapesca ce l'ho già piazzata. Ce l'ho ricollegata all'apparecchio, ma insomma ho staccato il microfono che deve saldare il filo. È piazzata la canapesca. La canapesca l'ho lasciata in terra e va benissimo. Va benissimo, ottimo. A quella precisa, a quella vittore? La gemella vittore. La gemella vittore, proprio la gemella. E la di quanto era più mesi sulla tua, da 8-9 mesi, la gemella, e funziona abbastanza bene. Quella lì non so chi era, di Manuele era quella antenna, era Manuele, un ragazzo, un amico, e poi mi passato a me, mi passato a me. Questo amico è sceso, un altro amico mio, che ha fatto una cortesia, un viaggio, un trasporto, e mi ha salito col camioncino, perché la macchina è impossibile portarla, è impossibile, è troppo lunga. E va bene, stazionare 0 e proprio 0, come la stella, neanche si muove il coso. Però tra le 17 è ideale, molto silenziosa, proveremo quasi zero, e va bene, diciamo, avanti già noi. Ehi, ha fatto bene, scatta. L'ho vista che è un bel lunga, e il trasporto viene male a trasportarla, capito? Ma come antenna è abbastanza buona, L'ho visto quando ho scattato da Emanuele, scatta, ogni antenna che fa tanto le lunga. Ma come sta a trasportarla? È impossibile, capito? Ma se ci vuole il server remote che ci vuole. Il camioncino, Giovanni, il camioncino sceso a fare un viaggio da questo amico e la camicina sul camicino, appunto. E venuto in sera, perché scorgeva parecchio. Poi era un po', diciamo, mezzo troncata, lui l'ha messo un bastone, non erano sentiti, l'ha messo, per fare la vita. E già va bene, fino a un gamba, andare, avanti. Sono un altro primo, pensi che campo, a fare campo, è indistruttibile. A meno che non sia che tornato per venirci. Allora si capita, vediamo se ha vento, ma vento si curva proprio, scende e poi si alza, non ha troncata. E come si tronca? Pazienza, avanti Luca sta mangiando, e avanti che vuole entrare. No, come a terra, non si rompe assolutamente, come fa a rompersi? E poi è piena quella, è piena, è possibile, si piega ma non si rompe. Cazzo, no, è una terra abbastanza robusta, per cui va bene, vai, va benissimo, meglio così va. E anche la stella è buona, Io lo ripeto, non posso mai stazionare, ma io avevo il radiale lunghi e tutti l'hanno mito un rosso, capito? E per quello me l'hanno rossa, sapevo che capire tanti anni, e quella che me le hanno rosse, per cui adesso c'è anche quella la mancia con quella della Bravo di Mario, è ancora ben dritta, anche se ci mancano i radiali, però funziona ancora, Viene stazionare, ma se... La tua era con le tubolari, non lo mio, invece la mia con le tubolari, cioè i tiri, sotto i tubolari, da 4 mm, diciamo, dai. Sono pensi da 98 centimetri, ma adesso io le compro delle tubi in alluminio da 4, da 5 le compro, e le taglio al metro il filetto, il finale, quando se capita che si rompe mi metto l'alluminio assolutamente, mi tolgo le stecche in alluminio. Avanti tu. Non è che c'è l'alluminio pieno pure all'apricole. C'è l'alluminio pieno di tutte le misure all'apricole. E forse è meglio anche... Ma quanti sono quei radiali che c'hai? Allora, se non è molto pieno, Giovanni, molto pieno. Da un metro sono. Sono un metro a 4 mm adesso. da 4. Va a capire, ma oggi è abbastanza bene, certo, perché non pesano, sa, anche se sono pieni, non pesano, così è tutto. Sì, infatti, non pesano, ma non pesano. Pesano un grammo. Già leggera l'antenna completa, è una piuma, io sono dato con la mano, posso leggera l'antenna. Dunque, se aggiungo il gabbiano lungo la pesa, ma è abbastanza leggera. Avanti Luca, Luca stai leggendo, avanti Giovanni. Luca, è sbagliato. Già esso se deve entrare, vai. Perlomeno. Quella che avevo io l'originale era buonissima, buonissima, in campagna sono scattato sopra l'albero d'olivo, la più alta che c'era, per cui cazzo mi hanno spacciato il radiale, con l'acqua allora l'ho buttato e ho piantato la mazza, l'acqua non c'era mazza, ma vai. Non la uso più quella lì, ormai muore lì con l'antenna, capito? Non so se tutto da... anche il capo l'ho tagliato, per cui non, in campagna non tocco più. Esatto, a me mi sembra consumato, tra l'acqua, il sole, il gelo, la protezione della bobina, che è la trasparente. E la trasparente era tutto bloccato e così via. E io l'ho fatto con un tubo di PVC arancione, la stessa misura, poi l'ho fatto il diverso bocchettone, l'abbiamo fatto una traduzione per entrare l'acqua dall'interno della bobina e tutta bella sigillata. Tutta sigillata, già va bene adesso. Avanti tu. Tu non faccio. Non fate così, non lo gioco bene. Ma io non l'ho più piazzata. Cosa ho piazzato a fare alla lampada? La porta di fare nulla. La lampada, qua è un'altra. Ma non c'è la camera pesca, la piazza di terra. E a fianco, la gattata, l'ho messa, vai. Non c'ho collegato la gattata che c'ho a fianco qua. Ma adesso per bisogno, quasi lo stacco e me la concedo. Ma comunque già faccio tutto, capito? La puoi tenere di scorta, la puoi tenere. Non la fastidio, è piazzata, capito? Non la fastidio. È anche collegata, parecchio. Adesso lo so vedo, sono deciso a staccarla e... attaccarla in 2 minuti, cioè. Perché con la canna a pesca, in recensione non è... solo con la 27 è buona, poi il resto non è buona a nulla. Quello che sta vincendo con canto, il soldo, perché io... è molto soldo, molto silenziosa, zero statale, sono la 27 ideale. Però per la frequenza, anche io faccio l'ascolto, 0.0. Sì, qualcosa ascolti, ma ci deve essere molta preparazione e le persone devono essere forti, però negativo. Con questa gira tutto quanto e ascolto tutto, arrivo 9.10, 9.20, capito? Bene, avanti Gianluca. Poi campagna, già lo sai che non ci sono rumori come ci sono i rumori qua, capito? E tutta un'altra cosa, che la ricezione dovrebbe essere molto buona, ma in città magari invece c'è troppo rumore. Cambia il rumore della campagna a desgrossata, capito Mario? E per cui va bene così, va. Cambia perché ormai abbiamo tutti quanti le lampade a legge e così via. Quindi praticamente con la piscina, con l'attacca e le botte di fermare la piscina, io prima sentivo il rumore del motorino, capito? Il motorino perché la piscina si pulisce da sola, se questo è un robot ogni notte. E questo la tiene tutto l'anno aperta la piscina. E tutto l'anno tu la vedi sempre bella pulita, limpida, oggi sempre c'è un robot sempre girando. E mi grava, mi ha problemi. Mi grava. Ma adesso già attaccato tutto va benissimo, va. Vediamo se Luca ha terminato di cenare. Luca, un attimo, storia. Luca sta cenando a mangiare. Ormai non entra, a meno che non entra a salutare, a rivederci. Luca è innamorato, capito? Luca è innamorato, fa bene, dai, è giovane, e fa quello che deve fare, avanti Gianluca. E altri pezzini invece dalle nostre c'ha lui, e per cui ci sta preparando e deve andare a trovare la gallina. Ah, è così. Avanti, sì, va bene. No, già entra, sarà andato. Ci vuoi entrare? Sì, fatto è così. Sono pre... la scorta sono la 27, non ho fatto gli altri, Santella. Lo so, l'ho fatto. Io sono piazzata, c'è la stella. In te la piazzata, cazzo, ho detto. Sono per la 27. È ideale, silenziosa. Trovate le frequenze, 0.0. Sì, sentivo qualcosa sui qualche frequenza, ma molto basso. Molto basso. Appena ho fatto questa, ho fatto il sorriso, l'ho visto, l'ho fatto. Ari, se c'era a te di quelle frequenze sue, le antenne sue, la ricezione che cambia dalla sui della 27, però funziona bene ugualmente, qualsiasi antenna e le altre frequenze. Magari non ti dà la leggerezza di ascolto come quando c'era sua proprio, capito? Per cui anche quella della 27 arrivano, perché ho usato sempre che la 27 li sentivo perfetti ugualmente, e mi sentivano. Esatto, sì. Esatto, sì, vabbè, ma qui io sono libero e riuscivo abbastanza bene, capito? Non ti sono i fuochi arrivano qua. Se con chi arriva anche 9.20, 9.25, ha soltanto, sempre giù di fuori, giù di fuori. Si va bene. Avanti di sole. Sì, no, le cose, io ti ho piazzato con l'altra e con quell'altra ascolto tutto qua, a tutti quanti ascolto. Con la canzone che c'ha, giusto? Sì, già. Con la canzone che c'ho, le cose, l'ascolto benissimo. E perché la lui mi ha lasciato la pesca 0.0. Ma non è altro proprio così. Avanti Giovanni. Ma è normale, no? Cacca. E le altre frequenze le ascolto perché non è per la 27, sì, anche per la 27, però non è perfetta, perché c'è in mezzo quell'altra frequenza, capito? No, tutto, basta che accordi, fa tutto. Sì, ma non c'è la ricezione che può essere con la scheda sua proprio. No, con quella no, ascolto tutto quanto, ascolto. Ma non è proprio fedele come può essere l'antenna sua. L'antenna sua di quelle frequenze è tutta un'altra funzione, tu. Io, cazzo, dovresti sapere queste cose. Però si sente bene ugualmente. Io mi ascolto abbastanza forte, li ascolto. Messi come riesco a ascoltare, li ascolto bene. Sì, non ho capito la cosa, Giovanna. Se c'è invece per il 40 metri, se c'è un'antenna per 40 metri, solo per 40 metri, ascolti meglio di quello che sai, capito? E una cosa, c'è più ricezione, c'è, capito? Dico qua, c'è una domanda che non arriva. E comunque gli assistenza, ragazzi, è quello che volevo dire io, è fatto, però non l'ho capito. Ma lo so queste cose, ormai, dopo 50 anni più, ma le sappiamo queste cose, poi già abbiamo frequentato anche persone di quelle frequenze, per cui le sappiamo, va. Sì, vabbè, quella che ho io fa da 6 metri agli 80 metri. E devi accordare logicamente, giusto? Devi accordare. Devi sopra accordarla. Vabbè, già posso accordare, se no ogni cosa c'ha le trappole e così via. Avanti, Giovanni. E anche quello, infatti, c'è l'accordo. Quando c'è l'accordo, però se metto la terra singola, diciamo, non c'è bisogno di accordatura, perché carezzata per quella frequenza e senti molto più perfetta la ricezione, anche la trasmissione, Maria. Questo voglio dire io. Sì, quello sì. Singolarmente, quello sì. È quello, perché ogni frequenza c'è l'antenna sua, per cui quando c'è l'antenna sua in quella frequenza, tra quello che senti e ti ascolta così. Fanno bene ugualmente quella multibanda, capito? Però ripeto, quella multibanda non hai la ricezione come questa antenna singola. Ci sono anche queste differenze, capito, sulle antenne. Allora, l'intento, perché in qualcosa ci vuole anche la sua, in 40 ci vuole anche la sua, in 80, insomma, ci vediamo una seconda e fa l'ascolto, fa tutto, quello che fa, diciamo, dai, a noi ci serve solo per ricezione, non si vuole e basta. Ma qui c'è un fine a fine porci, a me mi va bene questo, la sella mi va bene, avanti poi. Pugliare di Fruscia, guardare Canarini, non è proprio. E così è. L'unica antenna c'è il suo forse, una multibanda, devi sempre accorpare tutto quanto. Avanti, buonasera, abbiamo fatto. Buonasera a tutti, a tu insomma, perché a parte. Peccato non ti ho conosciuto, avanti Giovanni. Sì, ok, ciao, buonasera. Sì, buonasera a tu. Vabbè ragazzi, io vi devo salutare che mi devo pigliare i bacini. Ci risentiamo alle prossime. Ciao Marina, ciao Antonio, ciao Gio Maria, statemi bene tutti quanti. Ok, e anche agli ascoltoni. Ok, ci risentiamo alle prossime. Ciao! Ok, ciao Tobi, sentito senza signora. A domani. Ciao Tom, buon provvedimento. Mi raccomando, non sbagliare con le pastiglie. Occhio, vai a tu. Buon provvedimento. Te la recentiamo pure. E come mai, non avrei conosciuto, non di merito. No, allora, già te l'avevo conosciuto, ci metto due altri, la insegnare. Anche la voce della portosa, tu. Il cobra sto utilizzando per la radio. La roba della radio sì, cavolo. Però già da un po' mi piace tanto, mi saluto più questa che l'altra radio, credimi. Cobra, quello con display è grande, quadrato, quello c'è alto. Quello con lo schermo digitale. Lo svizzere, come c'era quadrato o c'era grande? Lo svizzere c'era. E giù c'è lo smitter, no, era diverso il mio. Il mio era particolare quello grande, l'avevo fatto, era staccato di averlo, è un bel apparecchio, cazzo, era un bel apparecchio il cobra, cazzo, ma lo va, certo faccia ci aveva quello mio, ma mai messo a certo faccia. Un attimo, mi prendo, devo uscire perché mi avevo raggiunto a casa. Ciao a tutti, ciao Giovanni, sono tutti i consigli e per me cura così. A domani se coincido. A tutti i consigli. Marino, ciao Marino, buon provvedimento, ciao Riccardo, ci aspettiamo. Capito, Otto, io e l'altro tipo aveva... Era in mezzo alla nostra frequenza quella che avevo io, capito? Era il 200, GTX, il 200 UDX, il mio, capito? Era un bello grande, era la macchina, però era grande, sembrava un professionale. Anche qua che io sono innamorato, mi piace molto. Anche se non è grande, non ha canali, vabbè. a 40 canali questo e cosa, però mi piace proprio come estetica, mi piace proprio usarlo, capito? È una bella radio, e cavolo, la adoro proprio, per quello che uso, quasi sempre uso questo. Sono buoni, anche Gianni ce l'ha il Cobra, però era diverso da quello mio, capito? Cazzo, avevo pagato 400 euro, io l'avevo pagato, cazzo, costava una barca di 4 euro, però se lo valeva, se lo valeva, cazzo. Però costa un po' di meno questo. Costa un pochino di meno, però ti posso dire Giamari che è una bellissima radio. Mi piace proprio che utilizzata, mi piace. Peccato che non hai canale, ma non mi interessa, mi piace anche così. Cosa ne fai di qua? Tanto no, non è che li usi, cazzo, non si sa quasi più in 40 casi per mangiare a prendere di più. No, io non ne avevo parecchio, stavano a 6 bande la Cobra mio, capito? E per cui era completo, per quello costava una pasca di 4 righe, capito? Ma l'ho dato perché mi sono stufato, per cui non ne volevo più. Mi basta questo che sto adesso, che sono tra tutti. Io sono dato il 2009, con quello con la con display di Azzurro, va. Ah, ho capito. Già va bene come radio, ah. Però non bene. Comunque sia, sono belli apparecchi, sono veramente belli apparecchi. Mi sa che tu hai avuto anche l'altro, l'altro concorrente, la C9, così è? L'ho avuto anche, abbiamo avuto due C9. Uno, già lo sai che l'avevo regalato a quella persona, perché si stavano spegnendo i numeri delle frequenzive, sono due numeri che si stavano spegnendo e non mi piaceva per lui, allora l'ho regalato, ecco, per cui ne ho avuto due. C'era un problema al frequenzimetro? No, me lo volevano cambiare, ma no, non l'altro e non mi interessava più, già ne avevo altro apparecchio, per cui mi bastavano quello che avevo, tutto lì, già. Bene, bene, bene, ok, ce la so, meglio 5 a tu, io chiuso, vai, ci sentiamo, troppo tardi sei entrato, magari stavi lavorando, per cui non potevi entrare prima, grazie, sei entrato, buon provvedimento, saluta il bambino. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ci